Questa sarà la lezione conclusiva del discorso di Chassidut che stiamo studiando, Tikkun B'Chodesh Shofar. Come abbiamo visto, che dà un approfondimento mistico, chassidico e cabalistico, e al tempo stesso indicazioni rilevanti per la nostra Avodat Hashem, per il nostro percorso di servire a Kadosh Baruch Hu, legato a tutto il momento che va dal mese di Elul a Rosh Hashanah, a Yom Kippur e a Sukkot e anche a ciò che segue nei mesi e nell'anno successivo, che appunto è anche il momento che viviamo proprio adesso, le settimane successive al mese delle festività. L'ultima parte torna a citare il versetto dei Teilim con il quale abbiamo aperto il discorso. Come vi ricordate, Tikkun B'Chodesh Shofar, suonate lo shofar nel momento del rinnovo. Abbiamo spiegato in maniera approfondita il senso di cosa significa questo rinnovo. E il prossimo versetto dice che Chok li Yisrael hu, poiché questa è la regola, lo statuto per Israele, Mishpat, una legge, l'Elokei Yaakov, per il Dio di Giacobbe. Quindi si fa riferimento prima al popolo ebraico con il nome Israel e poi al popolo ebraico con il nome Yaakov. Ora, cosa rappresenta il nome Israel? Sappiamo che la Torah stessa spiega cosa rappresenta il nome Israele e da dove deriva. Se vi ricordate la storia in cui si racconta la lotta di Yaakov con l'angelo di Esav, alla conclusione di quella lotta venne detto a Yaakov che sarà chiamato non solamente più, non solo Yaakov, ma anche Israel. Israel deriva dal Sar El. Sar significa un uomo, una persona o un'entità potente, come oggi si usa il termine Sar per indicare un ministro, significa. La parola Sar indica una posizione di importanza. Sar El significa qualcuno che ha prevalso su qualcosa che rappresenta addirittura il divino, rappresenta una grande forza. E cioè, nel senso più semplice, Yaakov che prevale sull'angelo viene chiamato Sar El, Ki sarita im Elohim, come dice il versetto nella Torah. Cosa significa? A livello più mistico e profondo, significa che il Sar, la persona che prevale, viene chiamata Sar, contro che sopra che cosa prevale? Il versetto dice in Elohim, prevali sopra Elohim. Ora, ovviamente non significa che prevale sopra Dio, significa prevale sopra ciò che è rappresentato dal nome Elohim, che non è altro che è lo Tzimtzum, il nascondere della luce divina. Significa che la persona che riesce ad oltrepassare, a vedere oltre il Tzimtzum, cioè il celare della luce divina, chi può vedere oltre, può invece arrivare, giungere a una rivelazione, questo significa è prevalere sullo Tzimtzum, prevalere su ciò che è rappresentato da Elohim. Allora, Israel rappresenta una persona che attraverso il proprio percorso approfondito riesce a superare ciò che si nasconde, ciò che nasconde per arrivare a ciò che appunto si nasconde dentro. Questo significa che la persona è riuscita appunto nel proprio percorso a far spogliare la propria anima dalle vesti, tra virgolette, più sporche, o poi non solo quelle più sporche, ma anche quelle che comunque creano una divisione, una separazione tra la parte divina e la parte mondana, e potendo far questo lavoro qui di spogliarsi da queste cose, quindi purificarsi, e non più scegliere il male, ma scegliere il bene, quello che è voluto dall'anima divina, quando nella persona è l'anima divina che prevale, sull'anima animale, allora la persona si chiama Yisrael, va oltre e riesce a prevalere su tutto ciò che nasconde e va contro la volontà di HaKadosh Baruch Hu. Come si esprime questa cosa nel nostro versetto? Chok le Yisrael. Cosa significa Chok? Chok significa anche una cosa, il senso più semplice di Chok è uno statuto, una legge, ma la parola Chok significa anche una somma, una quantità indicata di sostentamento. Come c'è scritto nel Mishlei, Hatrifeni lechem chuki. Fammi avere il pane che mi spetta. Si usa sempre anche lì la parola chok. Chok significa quindi quello che ci spetta a livello di pane, quindi a livello di nutrimento. Chok significa anche qualcosa di fisso, qualcosa che ricorre sempre. E Chok significa anche, dalla parola Hakika, incisione, come incidere delle parole in una pietra, che quindi la pietra diventa qualcosa che esprime un'idea attraverso quelle parole. Questi sono i tre significati della parola Chok. Cosa c'entra con Israele? Cosa c'entra con la persona? Innanzitutto, la Neshama stessa è considerata come qualcosa che è stata incisa, cioè ricavata dalla pietra, ricavata dalla sua fonte nel divino. E la Neshama al tempo stesso è anche un recipiente per trasmettere un'idea, un volere divino, così come le lettere incise rappresentano le parole che appunto formano nella pietra. Anche la Neshama rappresenta e trasmette l'idea che vuole essere trasmessa da HaKadosh Baruch Hu in questo mondo. E questo sempre, come l'altro significato di Chok, una cosa fissa che accade tutto il tempo. La Neshama non cambia mai idea. La Neshama rimane stessa, la Neshama nel suo interno, rimane sempre fedele al suo messaggio originale. Ed è sempre un luogo in cui riposa la volontà divina. E quindi quando la persona riesce ad arrivare a sincronizzarsi con la propria Neshama, ad entrare in contatto con quello che è il vero volere interno dell'anima, allora rappresenta l'idea di Chok le Yisrael, la legge di Yisrael, perché prevale appunto, come dicevamo, su tutto il resto. Quando invece si parla di Yaakov, come nella seconda parte del versetto, Yaakov, guardiamo la parola Yaakov, è formata dalle lettere Yud all'inizio e poi Akev. Akev sarebbe il tallone. Sappiamo che Yaakov è stato chiamato Yaakov proprio perché lui teneva, mentre usciva dall'utero della madre, teneva il tallone di Esav, del fratello. E per questo l'hanno chiamato Yaakov. Cosa rappresenta quest'idea a livello spirituale? Rappresenta colui che la quale anima divina ancora è molto in basso, cioè ancora non ha prevalso su tutti i problemi e su tutto ciò che questo mondo rappresenta. E quindi è ancora molto all'interno della mondanità, è molto nascosta, e per questo si chiama Akev, rappresentata dal tallone, come dire la Neshama si trova molto in basso. Questo non significa che la persona sta facendo un peccato o sta andando contro la volontà divina. Questo significa semplicemente che la persona sta lottando con il male, sta lottando con la mondanità, sta lottando con le volontà naturali e istintive che non sono quelle divine. Quindi sta cercando di sottomettere tutto ciò e ovviamente in questo tentativo ci sono alti e bassi, ci sono delle lotte, a volte prevale una parte, a volte prevale l'altra e questo è in realtà questo è il percorso che la maggior parte delle persone percorre nel corso della vita. Il percorso di Israele è qualcosa che si sente forse ogni tanto, o forse è più legato al percorso di uno tzaddik, ma il percorso normale di noi persone normali è sempre più segnato dall'aspetto Yaakov, da queste lotte, da questi alti e bassi. E qui il versetto dice Mishpat. Cosa rappresenta Mishpat? Il Zohar dice Mishpat Iurachameh. Mishpat rappresenta la misericordia di HaKadosh Baruch Hu. In che senso Mishpat rappresenta la misericordia? Quello che il versetto sta dicendo, secondo la mistica, è che viene fatto un Mishpat, quindi un giudizio, di quanta misericordia sarà espressa da parte di HaKadosh Baruch Hu nel corso di tutto l'anno. Perché? Perché il Talmud ci dice che la persona non avrebbe mai la forza di soprassedere lo Yetzer Hara e tutto ciò che gli va contro nel suo percorso di servire Hashem se non ci fosse un aiuto dall'alto. Sarebbe impossibile. Il Malè, HaKadosh Baruch Hu, Ozro, se HaKadosh Baruch Hu non lo aiutasse, non ci sarebbe la possibilità di farlo. E cioè la Gemara dice: tu devi fare, come si dice, aiutati che Dio ti aiuta, cioè devi fare la tua parte, e quando fai la tua parte, HaKadosh Baruch Hu mette la sua, ed è quella che dà la possibilità effettivamente di avere un po' di successo, o tanto successo, secondo quanto uno si impegna. Quindi questo flusso, diciamo così, di misericordia, e cioè di aiuto a chi si attiva per seguire la volontà di HaKadosh Baruch Hu nel corso di tutto l'anno, è qualcosa che Mishpat è già previsto dall'inizio dell'anno, e cioè da Rosh Hashanah, quando noi diciamo, come abbiamo spiegato prima, che si ricrea tutta la realtà, si dà anche in questa ricreazione, già dall'inizio, diciamo così, la quantità, se vogliamo dire, quanta misericordia sarà. Verrà esposta dall'alto verso chi si attiverà per seguire la volontà di Hashem, l'aiuto che ci sarà da parte sua è già previsto dall'inizio dell'anno. E tutto questo quindi viene già in maniera concentrata, in una pillola che viene durante Rosh Hashanah, e per questo motivo noi chiamiamo questo mese Tishri. Le lettere della parola Tishri possono essere ricomposte per comporre la parola Yishrat. Cos'è Yishrat? C'è un versetto nel libro di Melachim, il libro dei re, che dice Yishrat Levav, e significa letteralmente la correttezza, la rettitudine del cuore, cioè della persona. Quindi Yishrat Levav significa mettere in maniera corretta e in maniera di rettitudine il nostro cuore, quindi il nostro interno, che va ad alludere all'idea del Bechol Levavecha, che noi diciamo nello Shema, e i maestri dicono nel trattato di Berachot, cosa significa con tutto il tuo cuore? E poi con due bet, Levavecha, invece del Libecha con una sola bet, per indicare i due cuori. I due cuori significa i due aspetti della volontà della persona, i due Yetzarim, i due istinti, l'istinto del bene e l'istinto del male. Essere retti e corretti significa Yishrat, le stesse lettere di Tishri, significa allineare entrambe sullo stesso percorso. Quando appunto si sottomette lo Yetzer Hara, anche se ci si trova in uno stato di Yaakov e non necessariamente ancora in uno stato di Israel, questo non significa che non c'è l'aiuto dall'alto, anzi è proprio lì che subentra l'aiuto dall'altro, in quanto c'è scritto Kichok li Israel, Mishpat l'Elokei Yaakov. Anche per chi si trova a livello di Yaakov c'è un Mishpat, c'è un aiuto già previsto dall'inizio dell'anno di Rosh Hashanah, per dire non devi essere perfetto per rientrare nella volontà di HaKadosh Baruch Hu, ma sì devi lottare. E questo, prendiamo questa forza dal Rosh Hashanah, dal Kippur, dal mese di Tishri, con la Simcha di Sukkot, come abbiamo spiegato nella scorsa lezione, e la portiamo attraverso tutto l'anno.